Bene, se il cuoco che opera sulle Cevadas è un cuoco artista, utilizzerà il già noto, il già conosciuto, succo noto, cioè tutte quelle regole già conosciute da lui e dai suoi commensali, sulla base delle quali si realizza la comunicazione, per cui si potrà dire questa cosa è una Cevada. Al già noto, sempre se il cuoco è un cuoco artista, egli apporterà quelle variazioni che la sua immaginazione d'artista gli suggerirà e che faranno del prodotto finale un prodotto che farà pensare alla Cevada, ma non è una Cevada e non è né meglio né peggio di una Cevada. È invece un'altra cosa, altrettanto ben tenuta nella struttura, ma capace di esprimere un significato diverso, autonomo, linguisticamente ricco, originale, problematico, polivoco nei rimandi semantici, insomma, un'opera d'arte, ecco. E qui, se ancora non vi siete persi, miei